GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo il ministro Tajani intervenuto ieri per il forum Italia-Serbia, oggi in regione sono arrivati altri esponenti del governo Meloni. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è a Trieste per presentare il programma e gli eventi che avranno luogo nel corso del G7 istruzione di fine giugno. A Codroipo il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Di Leo partecipano all'evento dedicato alla nuova riforma fiscale del 2024 e i cambiamenti per le imprese. In Friuli Venezia Giulia crescono i redditi con la provincia di Trieste in testa, ma le donne dichiarano 10.000 euro in meno degli uomini, lo attesta un'indagine dell'IRES che ha rielaborato i dati sui divari in base alle dichiarazioni del 2023. Il mercato immobiliare sta registrando un dato curioso, il prezzo di acquisto delle case lungo la fascia transfrontaliera tra Italia e Slovenia registra sul territorio prezzi più bassi rispetto a quelli oltre confine. Nel fine settimana Trieste ospita il 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia con la presenza di rappresentanti delle 450 sezioni con più di 12.000 iscritti in occasione dei 400 anni della costituzione del primo reggimento di fanteria divenuto poi San Giusto e il 70esimo anniversario del ricongiungimento di Trieste all'Italia. Si intitola Terza Terra, la mostra di Michelangelo Pistoletto, animatore protagonista della corrente dell'arte povera, che sarà inaugurata nel tardo pomeriggio a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Le 12.32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 25 maggio. Dopo l'arrivo del vice premier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani per i lavori del forum Italia-Serbia, oggi in Friuli Venezia Giulia sono presenti altri esponenti del governo in carica. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è a Trieste, nella sede della regione di Piazza Unità, per la conferenza stampa di presentazione del programma e degli eventi che avranno luogo nel corso del G7 istruzione in calendario proprio a Trieste e a Lignano dal 27 al 29 giugno. Ma sentiamo le ultime novità da Eva Ciuc. In questo momento il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è impegnato nella conferenza stampa, come dicevate, assieme al presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sta presentando i temi del G7 dell'istruzione in programma dal 27 al 29 giugno che si terrà a Trieste. Da gennaio l'Italia è attuale presidente di turno del forum intergovernativo. Trieste è stata scelta perché rappresenta il ponte tra l'Occidente e l'Oriente, ha spesso dichiarato il ministro, che ha anche detto che la città si distingue per la sua capacità di integrare diverse culture, compresa la minoranza slovena. È una città che, ha detto ancora il ministro, ospita il più antico istituto nautico d'Italia e diversi enti scientifici. È nota dunque anche per il suo cosiddetto sistema Trieste. Si punterà dunque anche sull'innovazione, sul futuro, rappresentato da una maggiore attenzione alle materie STEM, cioè alle scienze, tecnologie, ingegneria e matematica e l'intelligenza artificiale. E tra le priorità già annunciate dal ministro nei giorni scorsi, il riposizionamento della scuola al centro della crescita comune. L'educazione globale, ancora detto il ministro, punta su un'istruzione inclusiva, rispettosa e responsabile. Il G7 dell'istruzione all'obiettivo di valorizzare il ruolo e le esigenze degli studenti, mira a combattere il bullismo e anche l'aggressività verso il personale scolastico, valorizzando il lavoro dei docenti e dei dirigenti scolastici. Nel programma anche la prima edizione del G7 dei giovani, che si terrà a Lignano con i rappresentanti e studenti delle scuole secondarie italiane e degli altri paesi. E da Trieste è tutto. Linea allo studio. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Di Leo sono a Codroipo per partecipare all'evento dedicato alla nuova riforma fiscale e ai cambiamenti previsti per le imprese. Con loro è il generale Giovanni Avitabile, comandante regionale della Guardia di Finanza. Non chiamatelo più redditometro, quello è uno strumento defunto. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo parla a proposito del provvedimento, poi sospeso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per approfondimenti, dopo i dubbi espressi all'interno della sua maggioranza. Si tratta di una misura che va a colpire i grandi evasori, coloro che possiedono auto di grandi cilindrate o yacht non giustificati dalle dichiarazioni dei redditi, ha aggiunto Leo, una misura adottata dopo le sollecitazioni della Corte dei Conti. Le parole parole dell'esponente di governo a margine dell'appuntamento della BCC Pordenonese e Monsilia alla cantina Rosciello di Codroipo a proposito della riforma fiscale di cui Leo è l'artefice. Presente anche il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che ha rispedito al mittente l'accusa secondo cui il governo strizza l'occhio agli evasori. Tra i relatori il comandante regionale della Guardia di Finanza Giovanni Avitabile, il generale, ha affermato che i tassi di evasione in Friuli Venezia Giulia rimangono più bassi della media italiana, anche se ci sono ancora margini di miglioramento sulla questione del lavoro nero presente, soprattutto in agricoltura, dove non mancano casi di caporalato. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia crescono i redditi con la provincia di Trieste in testa, ma le donne dichiarano 10.000 euro in meno rispetto agli uomini. Per quanto riguarda i contribuenti nati all'estero, la nostra regione registra il record sull'imposta netta IRPEF con l'8,8%. Sono questi alcuni dei dati di un'indagine dell'IRES che ha rielaborato dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui divari in base alle dichiarazioni del 2023. Altro divario molto pronunciato è quello dell'età. I contribuenti tra i 45 e i 64 anni registrano il reddito medio più elevato, circa 29.000 euro, superiore sia rispetto a quello degli over 65, che è inferiore a 24.000 euro, sia quello dei 25-44 anni, che è poco più di 21.000 euro. Le persone più anziane, in gran parte pensionate, percepiscono redditi mediamente superiori a quelli dei giovani tra i 25 e i 44 anni. I pochi under 25 che dichiarano un reddito ai fini IRPEF e sono il 4%, totalizzano in media meno di 8.000 euro. Secondo un altro report dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, in Friuli Venezia Giulia il ricorso al super bonus edilizio ha interessato il 4,5% delle unità abitative presenti in regione, è il dato più basso tra tutte quelle del nord-est. A livello nazionale il super eco bonus 110% è costato alle casse pubbliche oltre 120 miliardi di euro di detrazioni fiscali. Rimaniamo in tema per parlare del mercato immobiliare, che sta registrando un dato curioso. Il prezzo di acquisto delle case lungo la fascia transfrontaliera tra Italia e Slovenia registra nel territorio prezzi più bassi rispetto a quelli oltre confine. Pirano, mini appartamento, 17 metri quadrati a 140.000 euro, 8.000 euro al metro quadro. Spostiamoci a Capodistria, 12 metri quadri, 115.000 euro, significa 9.500 euro al metro quadro. Mini appartamenti dai prezzi folli, li chiamano garçonniera alla francese, di fatto sono buchi che in Italia non sarebbero neppure vendibili come appartamenti se costruiti oggi. E dire che fino a qualche tempo fa erano i triestini ad andare oltre confine per comprare casa a prezzo ridotto. Oggi non è più così. Chi compra a questi prezzi? Giorgia Slokar, agente immobiliare che tratta clienti tra Slovenia e Croazia. Al di là del cliente comunque sloveno del posto, acquistano specialmente austriaci, tedeschi, polacchi, hanno iniziato anche gli ungheresi e gli inglesi ultimamente. Perché sono aumentati così i prezzi e in maniera così rapida, più o meno dal 2018 in poi? Sicuramente gli investimenti immobiliari fatti dalla Slovenia, ma anche la presenza di marine che hanno indubbiamente attirato una clientela danarosa che ha deciso di acquistare anche il pied-à-terre da avere direttamente sul territorio. Di riflesso, gli sloveni che magari fanno i transfrontalieri, la spola su e giù tra Italia e Slovenia, a questo punto comprano qui a Trieste anche la prima casa? Lo chiediamo a Stefano Nursi, presidente regionale degli agenti immobiliari del FIAP. Beh, certamente sì, anzi abbiamo visto appunto un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti e quindi alcuni sloveni vengono qua nel Friuli Venezia Giulia per acquistare una prima casa o anche per andare in affitto, cosa che non si era mai vista. Succede qui a Trieste e anche a Gorizia? Succede anche a Gorizia, dove Gorizia ha dei prezzi assolutamente molto appetibili per anche coloro che abitano a Nova Gorizia. Trieste, Nuovi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato a Gorizia dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è venuto in seguito a un controllo in corso Italia in cui l'uomo è stato notato per il suo atteggiamento sospetto e una volta fermato è apparso evasivo e agitato. Nel suo zaino sono stati trovati circa 20 grammi di hashish nascosto in buste per tabacco e 600 euro in contanti, mentre a una successiva perquisizione domiciliare sono emersi altri 100 160 grammi di sostanza stupefacente, in aggiunta a un bilancino di precisione per la pesatura della droga e a 1.300 euro in contanti. Il giudice per le indagini preliminari di Gorizia ha convalidato per il 34enne gli arresti domiciliari, mentre gli stupefacenti in suo possesso sono stati sequestrati. Nel fine settimana Trieste ospita il 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia, con la presenza di rappresentanti delle 450 sezioni con più di 12.000 iscritti, in occasione dei 400 anni della costituzione del primo reggimento di fanteria divenuto poi San Giusto e il 70esimo anniversario del ricongiungimento di Trieste all'Italia. Questa mattina, dopo la deposizione di una corona alzabandiera al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, è seguita una cerimonia nella sala del Consiglio Comunale assieme al sindaco Roberto Di Piazza e al presidente nazionale di Assofante Gianni Stucchi, prima della Santa Messa presso la chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in piazza Sant'Antonio. Nel pomeriggio seguirà la deposizione di una corona al Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba e al Sacello di Guglielmo Berdan in via 24 maggio. Alle 17 in programma, in sala Costantinides del Museo Sartorio, la conferenza Pattuglia d'Est a cura di Pierpaolo Donvito, analisi dell'organizzazione del sistema difensivo sul confine orientale del Carso Triestino negli anni della Guerra Fredda. Infine alle 19.30 la giornata terminerà con l'esibizione delle bande e fanfare delle sezioni dell'Associazione Nazionale del Fante in Piazza Unità d'Italia, Piazza della Borsa e Piazza Ponte Rosso. E il 25 maggio è anche dedicato alla giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Polizia di Stato partecipa anche quest'anno a una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza per aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, mettendo a disposizione di ragazzi e genitori un opuscolo informativo e un segnalibro realizzati in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, distribuiti dalle questure, nelle scuole e nell'ambito di eventi pubblici. Con la Fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi a rischio, quest'anno la Polizia di Stato ha realizzato la campagna Controlla, rifletti, denuncia e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112 per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un minore. Ha l'obiettivo di mantenere viva la vigilanza sulla ricerca della verità per Giulio Regeni, ricercatore di Fiumicello assassinato al Cairo nel 2016 in circostanze ancora non chiarite, la panchina gialla dell'artista Gianni Pasotti, che oggi sarà in posa e scopertura. L'iniziativa è intesa a interrogare le intelligenze di chi la vedrà anche solo di sfuggita, passandole davanti. A Pordenone, alla Casa del Popolo di Torre, alle 18. È stato approvato dall'Assemblea dei Soci, che si sono riuniti ieri, il bilancio d'esercizio 2023 del consorzio Acquedotto Friuli Centrale CAFC SPA, che chiude con risultati economico-finanziari in crescita. Il valore della produzione si è attestato a 99 milioni di euro, registrando una crescita di 4 milioni rispetto al precedente esercizio, con un margine operativo lordo di 24 milioni di euro e un utile netto d'esercizio di 5 milioni di euro, destinato a riserva per l'attività di investimento nel territorio di competenza a beneficio del potenziamento delle infrastrutture idriche. Il patrimonio netto aziendale ha superato quota 101 milioni di euro grazie anche all'operazione di integrazione societaria con Acquedotto Poiana SPA. Operazione che ha comportato un aumento del capitale sociale con sovrapprezzo azioni e l'ingresso di 12 nuovi comuni soci dell'area del Cividalese nella compagine sociale di CAFC SPA, portando così a 134 il numero complessivo dei soci. 12.43, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla costa, coperto su pianure e montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi, a Gorizia 23 gradi e mezzo, a Udine 22 e mezzo, a Pordenone 19, in Aramontana, Tolmezzo 17 gradi e 5 decimi, Tarvisio 16 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 14, Sappada 11 gradi e mezzo, Piancavallo 11, in quota sul Monte Zoncolan 8 gradi, sul Monte Lussari 7, sulla costa Lignano 22, a Grado 21 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Nel pomeriggio avremo maggiori schiarite, specie su pianure e costa, saranno possibili dei rovesci e qualche temporale, più probabili comunque sulla zona montana, venti a regime di brezza domani, sulle zone centro-occidentali cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sulla fascia orientale, dove saranno più probabili dei rovesci e dei temporali nel pomeriggio rispetto alle altre zone, venti a regime di brezza, verso sera probabilmente soffierà Borino sulla costa. Il comitato Novo Via Trieste lancia la sfida alle candidati e candidati del Collegio del Nord-Est alle prossime elezioni europee, diramando alle segreterie di tutti i partiti coinvolti e delle liste un appello formale a impegnarsi, qualora eletti, per fermare l'opera a livello comunitario. Invitiamo chi si candiderà a rappresentarci a Bruxelles di qualunque parte politica a impegnarsi con ogni mezzo possibile nell'interesse di elettrici ed elettori per fermare il cosiddetto inutile, impattante e insostenibile Ovo Via, dichiarato il coordinatore del comitato No Ovo Via, William Starz, che ha ribadito trattarsi di un'iniziativa trasversale, inoltrata alle segreterie di tutti i partiti e a tutte le liste. Settembre viola tutto l'anno costruire comunità amiche delle persone con demenza, il convegno pubblico dedicato ai lavori per l'ottimizzazione di servizi già esistenti, la creazione di nuovi supporti e la sensibilizzazione nei confronti delle persone con demenza e delle loro famiglie. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione De Banfield, prevede l'intervento di Luisa Besanzini, dirigente psicologa dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, e ha l'obiettivo di facilitare il permanere delle persone con demenza nel loro ambiente di vita abituali, mantenendo dignità e qualità di vita. Appuntamento a Sistiana nella sala ex Hyatt alle 17. Saranno invece consegnate tra poco alle 14 le benemerenze per le donazioni più numerose a 6 volontari nel corso dell'assemblea provinciale dell'Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine. Per l'occasione il presidente Roberto Flora condurrà una relazione e l'assemblea voterà la sede del convegno provinciale del prossimo anno tra le 3 candidate che sono Pontebba, Buia e Gonars. Appuntamento a Udine nel polo economico giuridico dell'università in via Tomadini appunto alle 14. Prima giornata per cantine aperte, 2 giorni dedicata alle realtà enoturistiche friulane, che propone un ventaglio di eventi, dalle degustazioni alle iniziative culturali. Circa 78 le cantine del territorio aderenti all'iniziativa, che proporranno visite in cantine nei vigneti, laboratori sensoriali con abbinamento cibo-vino, picnic in vigna, manifestazioni musicali. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Si intitola Terza Terra, la mostra di Michelangelo Pistoletto, animatore e protagonista della corrente dell'arte povera, in inaugurazione a Villa Manin di Passariano di Codroipo alle 18. L'esposizione, che sarà accessibile fino al 31 dicembre, si propone come uno dei grandi appuntamenti estivi storico-artistici anche per l'allestimento di alcune tra le opere più importanti di Pistoletto. Ne abbiamo parlato con Guido Comis, direttore servizio catalogazione e promozione dell'ente regionale patrimonio turistico artistico culturale ERPAC. Non è in realtà solo una mostra Terza Terra, ma è un percorso che parte dalle opere di Michelangelo Pistoletto, i capolavori di Michelangelo Pistoletto, dai quadri specchianti dei primi anni 60 alla Venere degli stracci, al metro cubo di infinito, per giungere molto più lontano. Diciamo, il percorso di opere di Pistoletto si conclude con il Terzo Paradiso, realizzato nel parco della villa, un grande segno grafico riprodotto in questo caso però con delle piante ed è lungo 50 metri, quindi già una cosa spettacolare. Dicevo, la mostra va molto più lontano perché le opere di Pistoletto rappresentano lo spunto di dialogo anche con altri artisti, ma soprattutto con tutti coloro che ai livelli più diversi operano in Friuli Venezia Giulia, il mondo della produzione, il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, il mondo della cultura, perché l'idea è che l'opera non sia solo qualcosa da osservare, da ammirare, ma che rappresenti anche lo spunto per un'evoluzione così in senso etico della società. Per questo anche il titolo Terza Terra, quindi un luogo un po' ideale da raggiungere, e speriamo attraverso questa mostra, appunto lo spunto che ci offrono le opere di Pistoletto, di riuscire a dare avvio a questi dialoghi sia artistici ma anche di carattere molto più pratico, che servano anche come occasione di progresso. Quante sono le opere in esposizione? Sono circa una ventina, ma bisogna immaginare che si tratta di opere di carattere monumentale, ognuna delle quali molto spesso occupa un'intera sala della villa. Quindi non dobbiamo immaginare 20 dipinti, ma dobbiamo immaginare 20 grandi opere che dialogano con gli spazi, le sale di Villa Manin. Passiamo allo sport, iniziando dalla pallanuoto in Serie 1 maschile, la Pallanuoto Trieste in gara 2 di finale playoff, 7° posto del campionato, ospiterà il Telimar Palermo alla Bruno Bianchi con inizio alle 15. I giuliani, per l'ultimo impegno stagionale davanti ai propri tifosi, cercheranno un risultato positivo per forzare la serie alla bella nel quarto confronto in campionato tra le due squadre, con due vittorie per i palermitani e un successo alla Bardato. Tennis: nessuna italiana è riuscita a qualificarsi per le semifinali della Città di Grado Tennis Cup. Le ultime due azzurre a cedere il passo nei quarti di finale sono state ieri Aurora Zantedeschi e Beatrice Ricci, che si sono arrese rispettivamente a Elena Pridankina e a Katinka von Dijkman, le quali si sfideranno nella prima semifinale del singolare, che è in programma alle 15, mentre nell'altra saranno di fronte alle 17.30 Jones e Soboleva. La finale del doppio è prevista tra pochi minuti alle 13. Al via questa mattina la prima delle due giornate della 53esima edizione della gara automobilistica internazionale di velocità in salita a Verzegnis e Sella Chianzutan. Oggi il programma è dedicato alle prove ufficiali, che vedranno la partecipazione di Simone Faggioli, 11 volte campione europeo di velocità in salita, oltre che 17 volte campione italiano di velocità in montagna. La chiusura delle strade interessate è prevista sino al termine delle sessioni di gara. Saranno oltre 600 gli atleti che prenderanno parte alla due giorni di sport del quarto triathlon Kids Enduro Giovanile Città di Gorizia, a cui sono attesi triatleti anche da Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto, oltre che da Slovenia, Croazia e Austria. Parte del ricavato derivante dalle iscrizioni sarà devoluto all'associazione per i ragazzi autistici Always Entusiasmo. L'inizio delle competizioni allo stadio Bearzot di Campagnuzza, con la staffetta di corsa di 3x3000 metri competitiva dalle 17. Passiamo alle nostre rubriche. Domani andrà in onda sulla terza rete televisiva Rai a diffusione nazionale alle 11.05 la rubrica Est-Ovest, curata dalla nostra redazione. Sentiamo quali saranno gli argomenti di questa puntata. Il destino degli sfollati interni in Ucraina, persone che non si arrendono alla logica della guerra. Baby Lasagna, al secolo Marko Puricic, rocker croato che all'Eurosong ha espresso le angosce di una generazione. Tallinn, in Estonia, è la capitale verde dell'Europa, una rivoluzione ecologica iniziata più di un decennio fa. Il Museo Militare di Vienna dedica una sala all'attentato di Sarajevo che 110 anni fa provocò la Grande Guerra. Il ruolo determinante della Puglia nella collaborazione economica e turistica tra l'Italia e l'Albania. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, alle 8.50 andrà in onda la tradizionale rubrica Vita nei Campi. Ecco di che cosa si occuperà. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura normative e polemiche in fatto di fotovoltaico e agrivoltaico. A seguire la storia di Angelo Floramo, che ci porta nella stalla, uno dei capisaldi della casa contadina. Lampone, more e mirtilli, piccoli frutti ma sempre più richiesti dal mercato. E ancora nella rubrica dei sommelier le birre del Belgio, prodotti di scuola nel settore brassicolo, per lo spazio che dedichiamo alla conservazione dei cibi, di scena gli asparagi. All'ERSA di Pozzuolo si stanno studiando nuove tecniche per la produzione di terrici ecosostenibili. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. L'installazione intitolata Ci vuole un fiore per sognare, amare, curare, sperare, guarire, espressione collettiva, creativa di artisti da tutta Italia, oltre a volontari e ospiti di case di riposo, sarà accessibile a Trieste nel giardino di Borgo San Sergio con orario 10.18. Per la musica, in occasione del centenario della nascita del musicista, direttore d'orchestra, pianista, presentatore televisivo, attore, regista e scrittore triestino Lelio Luttazzi, la Friuli Venezia Giulia Orchestra, guidata dal maestro Walter Sivilotti, si esibirà nella rielaborazione in chiave sinfonica di alcuni dei maggiori successi del maestro a Pordenone, all'Auditorium Concordia, alle 20.45. La Central European Academies Network Seaman Orchestra, formazione di 35 talenti scelti fra i migliori delle istituzioni di alta formazione musicale del Centro Europa, prosegue il suo Beyond Borders Tour a Trieste, al Teatro Verdi, alle 18.30. Il duo Pisapia Flotta di pianoforte a quattro mani si esibirà in un programma dal titolo Fauré e il suo tempo a Trieste, al Castello di Miramare, alle 20. Il pianista palestinese Aem Ahmad sarà protagonista di una serata di musica dal vivo a Trieste, al Teatro Miela, alle 21. La Cenerentola di Gioachino Rossini, diretta da Enrico Calesso, sarà rappresentata a Udine, al Teatro Nuovo, alle 20. Per gli spettacoli, In viaggio con la Duse, lo spettacolo diretto da Massimo Navone, che sarà in scena a Cordenons, all'Auditorium Aldo Moro, alle 20.45. Infine, La calzolaia prodigiosa, la farsa scritta dal poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, che sarà rappresentata a Trieste, al Teatro del Centro Giovanile di Roiano, in via dei Moreri, alle 20.30. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Giuliano Pecorari e di Gianpaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 14.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.